Bella raga, sono Pietro, anche di Solo Vinili Libri, e io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai! Hey everybody, this is John Connolly of Nuclear Assault. You are listening to Onda Rossa on Do It Yourself Radio. Please call in your support. Io sono Roberto di Tutti i Pazzi Fanzine e anch'io ascolto Do It Yourself Invasion, lotta dura per la verdura. È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Non delegare, partecipa. Minuti primi, torniamo in voce sull'87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Quindi l'appuntamento dopo Allegro con Fuoco il giovedì è dalle 21 alle 22 con Do It Yourself Invasion. Ricordiamo brevemente i contatti della radio. E quindi partendo dal sito raggiungibile al www.ondarossa.info. Sito dove poter ascoltare la radio in diretta streaming. Radio Onda Rossa, radio nata libera nel 1977. Ed autogestita, ed autofinanziata da quasi 40 anni. Quindi per poter contribuire alla sopravvivenza di questo progetto libero potete farlo attraverso appunto il sito della radio andando a cliccare su Sostieni. Sarete indirizzati ad una pagina. Dove sono attive le coordinate di PayPal. Nonché la nuova modalità, un collegamento alla piattaforma Produzione dal Basso. Quindi una piattaforma di crowdfunding. Nonché sempre attraverso il sito. Troverete le coordinate che difficilmente ricordate qui dicendole, cioè ascoltandole insomma. Dette velocemente, ma il conto corrente postale è lo storico 6180401, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001. Via dei Volci 56 00185 Roma San Lollo. L'email di redazione ondarossa@ondarossa.info. Nonché l'email della trasmissione fantasma@ondarossa.info. Dove potete scriverci per segnalarci le vostre iniziative. E farci conoscere le vostre autoproduzioni, lo ricordiamo, questa ora del giovedì dalle 21 alle 22. È concentrata appunto su tutto quello che gira intorno al mondo dell'autoproduzione. Il numero di telefono 0649 1750. Intanto sotto ascoltiamo i Social Trauma, usciti su Copia Fisica, quest'ultimo lavoro. E quindi la prima stampa, solo 10 copie. Grazie, grazie, grazie. No, ma mica per niente, avevano finito la carta per la stampa, quindi sono uscite per adesso solo 10 copie dell'ultimo lavoro dei Social Trauma. Ci hanno promesso che insomma con il tempo riusciranno a stampare altre copie. Questo è l'hardcore eretico dei Social Trauma. E durante questa puntata andiamo a chiudere il report, insomma, della nostra trasferta nei territori bolognesi. Siamo stati il 19 febbraio all'XM24. E tadan, abbiamo in linea i Repressione. Yo! Dai. Allora, Repressione. Chi sono i Repressione? No, innanzitutto, cioè, cominciamo con le presentazioni. Chi abbiamo al telefono? Ci siamo pochi membri. Siamo dimezzati. Vabbè, qualcuno so che è stato colpito dall'Ebola. Un'Ebola di nuova, diciamo, di nuova generazione. Quindi abbiamo il membro alla batteria e il membro al canto. Solo chi suona le corde. Come? Soltanto quelli che suonano strumenti a corda abbiamo. Ah, vabbè. Quindi sono io, Domenico alla chitarra. Io, Edo alla chitarra. E Petrito al basso. E manca Pavel, che salutiamo, che magari all'ascolto è quello colpito. Pavel, rimettiti. Dai. No. Allora, Repressione da Bologna. Da Bologna, per modo di dire. Cioè, abbiamo trovato in Bologna il punto di incontro, chi per studio, chi per lavoro. Però in realtà ognuno di noi viene da una realtà geografica diversa. Quindi vabbè. Siamo io e il Pavel di Bari. Io Edo sono di Parma. Io sono senegalese di Marche, con origini addirittura extracomunitarie, quindi. C'è addirittura una formazione internazionale. Esatto. Sì, volendo sì. Ok, ma vabbè, dove vi siete conosciuti, quando è iniziato il progetto? Il progetto Repressione. In Repressione sono nati a gennaio del 2015, quindi un annetto fa. Però dopo un cambio di line-up a luglio scorso, è entrato Mauretto, che con me anche negli Zeman, è entrato in Repressione, alla batteria, e diciamo da settembre abbiamo iniziato a suonare live con, diciamo, con più frequenza fino ad adesso. E ci siamo noi tre, io ed Albetrit, che frequentiamo la stessa facoltà, facciamo filosofia. Poi Antonio, mio fratello, Mauro, ci conosceva perché era del giro, quindi siamo nati per questo. Quindi un po' conosciuti nell'ambiente universitario, un po', insomma, per frequentazioni di spazi comuni, insomma. Esatto, sì, esatto. Ok, e come... No, mi sono emozionato con i Repressione in collegamento. Facciamo questo effetto. Sì. No, no, cioè, un gruppo giovane. Ci puoi raccontare invece quello che c'era prima dei Repressione? Come siete arrivati a Repressione? Se avete avuto altre esperienze musicali? Allora, io diciamo, è un percorso abbastanza strano, perché vengo dal mondo classico, perché sono diplomato in conservatorio, quindi ho sempre frequentato il mondo classico, però ho sempre avuto questa, diciamo, vena alternativo hardcore, diciamo, quindi ho frequentato sempre la scena, prima a Bari e poi adesso a Bologna, per poi formare i Repressione ed entrare negli Zeman. Io da Parma, cioè a Parma, ho sempre frequentato la scena, ho suonato con un gruppo hardcore anni 80, fin da quando avevo tipo, suono hardcore punk anni 80 fin da quando avevo 16 anni, 17, ho suonato con i Led Sheet, dove facevamo punk rock, punk hardcore, e poi sì, ho sempre frequentato la scena fin da quando sono un pischellino, ho suonato con vari della scena di Parma. Ma, e adesso qua a Bologna, cioè, ho suonato tipo anche con membri degli USAC, gente così, e poi adesso qua a Bologna ho conosciuto gli altri ragazzi, abbiamo formato in Repressione e suoniamo oramai da un annetto. Ma l'età media dei Repressione qual è? C'è chi alza la media, però vabbè, dai, siccome è sui 24-25, sì, facciamo la media è sui 26-27, perché pure diciamo, così sta. Sì, ci siamo noi tre che abbiamo tra i 21 e i 22. No, no, poi c'è chi ha 28 e c'è chi ne ha 33. No, cioè, perché può sembrare anacronistico, no? Dei musicisti così giovani che si rifanno all'hardcore anni 80, ma magari più per quanto riguarda le esperienze passate, come stavate raccontando, può sembrare anacronistico, no? Cioè, come il suonare una musica del passato, che non è la musica del passato. Sì, cioè, diciamo, il nostro modello diciamo dal punto di vista sonoro, sì, sono i gruppi degli anni 80, Indigesti, Quinto Braccio, diciamo gente di questo calibro, ma soprattutto perché, come ben sai, la nostra è una musica militante, politica, che punta a comunicare qualcosa, e quindi non soltanto un mero divertentismo. Quindi rifarci agli anni 80 è stato d'obbligo. Poi cerchiamo ovviamente di prendere le istanze odierne e trasformarle in musica, e quindi, diciamo, se dal punto di vista sonoro ci rifacciamo agli anni 80, è anche vero che siamo sensibili alle tematiche attuali. Bene, bene. Ma vabbè, dopo questa presentazione, dopo un po' di chiacchiere, vogliamo cercare di far capire agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Onda Rossa che roba fanno in Repressione, così magari diamo un'idea. Senti, io c'ho pronto tutto, cioè, quindi scegliete voi a caso, cioè a caso, insomma, scegliete voi e io sono se pronto. Hai anche 1-3-1-2 sotto mano. Come no? Certo. Sarebbe ideale. Va bene. Allora, 1-3-1-2 che sono coordinate aritmetiche, che cosa? È una formula matematica. No, è una formula matematica. 1-3-1-2. Una difficile formula matematica, un'espressione quasi che pochi riusciranno a decifrare. Vabbè, niente, chi è all'ascolto, insomma, usate l'immaginazione. 13-12, loro sono in Repressione. Insomma, 13-12, un pezzo in inglese. Sì, è unico tra l'altro di tutti i nostri pezzi, perché normalmente cantiamo in italiano, sempre ricalcando scena anni 80 soprattutto, ma anche gruppi attuali tipo i Contrasto, soprattutto i Contrasto, i Termidown, le tematiche che per la musica i Termidown, ovviamente Affluente, tantissimi altri gruppi, non so, anche quelli tutti della Puglia Hardcore, anche Lud, Trento Hardcore. Sì, la scelta dell'inglese è stata quasi d'obbligo, perché comunque il messaggio è, diciamo, internazionale, quindi abbiamo voluto ribadire il concetto non solo in italiano, ma diciamo che fosse comprensibile ai più. E questo è un pezzo che sarà nel prossimo lavoro, no? Sì, è uno dei pezzi che sarà il prossimo lavoro a cui abbiamo già lavorato e che prossimamente sarà in uscita. Come avevo già detto, è solo l'unico pezzo in inglese, anche perché a noi piace molto cantare in italiano, no? Ispirandoci anche, come si è ribadito più volte oggi, agli anni 80, 90 e basta. Questa è solo stata un'occasione, un'eccezionalità, diciamo, di canzoni in inglese. Tutto il resto sarà ovviamente in italiano, non vi preoccupate, comprensibile anche molto più della demo di quest'estate. Sì, il nuovo lavoro si chiama Fuoco, mm-hmm. E sarà disponibile in cassetta tra fine marzo e inizio aprile. Vabbè, quindi già qualcuno di questi dei pezzi che saranno sul prossimo loro sono già ascoltabili e scaricabili online sulla pagina di Bandcamp, no? Sì, ovviamente appena avremo tutte le registrazioni finali mixate andranno subito su Bandcamp, così da download. Però vabbè, un paio di pezzi, un'anticipazione, no. Una è una cover appunto dei Contrasto, qui ci ispiriamo molto, e un'altra appunto è 1312. Senti, no. Un piccolo antipasto di quello che sarà la nuova registrazione. Bene, bene. No, ritornando insomma alle citazioni di tanti gruppi anni 80, ricordiamo la cover che c'è sul primo lavoro di Repressione, che è Rumore e Rabbia, ed è un pezzo dei Quinto Braccio. Sì. Ok. Come mai la scelta di questo pezzo in particolare, se ce ne vuoi parlare? Se ce ne volete parlare, diciamo, sia dal punto di vista del musicale, Quinto Braccio era un'istituzione, ma anche poi il nome Quinto Braccio era quello, il braccio dei detenuti politici nel carcere di San Vittore di Milano, se non sbaglio. Quindi diciamo, e la scelta è ricaduta d'obbligo, perché appunto noi propugniamo una militanza che sia anche musicale, quindi ci rifacciamo a quei gruppi come Quinto Braccio, che nella cover che noi tra virgolette coverizziamo, Repressione, si stagliano contro il sistema capitalistico e quindi contro l'eroina, l'utilizzo che è stato fatto dell'eroina per distruggere il movimento. Quindi sempre una scelta che si è legata non ad un mero gusto personale, ma ad un'istanza politica. E trovate questo, il testo dei Quinto Braccio, in qualche modo con un'attualità rispetto a quello che c'è oggi in giro? Ma forse è un po' inattuale, perché nella canzone dei Quinto Braccio è un po' anche citata quella che è la situazione dell'eroina nell'Italia degli anni 70-80, con l'operazione Comune e tutto il resto. Però comunque sì, la repressione è ovunque, c'è sempre stata, continuerà a esserci, è sempre costante da parte dello Stato verso chi cerca appunto di abbattere il sistema, di chi cerca di abbattere quella che è l'autorità, e quindi anche un po' diciamo dislocandoci da quello che è la situazione delle droghe, che comunque rimane anche costante ai giorni d'oggi. Il sistema, il contesto della repressione e continuerà a essere secondo noi costante appunto dalla parte dello Stato, dell'autorità, verso chi cerca di abbattere questo sistema di padroni. E come dicono in Contrasto, proporre un mondo che non sia migliore ma radicalmente diverso. E cerchiamo di fare una cosa un po' complicata, usando magari il testo dei Quinto Braccio, che si rifanno ad un uso repressivo dell'eroina, insomma, da parte dello Stato, cambiando totalmente insomma modalità all'interno degli spazi che frequentiamo tutti quanti, trovate che il consumo magari eccessivo di alcol o droga possa essere un ostacolo alla socialità, insomma alla creazione di pensieri più costruttivi? Cioè, ma vi volevo chiedere se avete per le vostre esperienze vissuto una cosa del genere, insomma così. È innegabile che sia l'utilizzo di alcol che di droghe, soprattutto quelle pesanti come potrebbero essere l'eroina appunto o altre, portino ad un abbassamento del livello della militanza, perché comunque portano una separazione e quindi ad un indebolimento della persona, se ne fa ovviamente un uso eccessivo, se si perde la mano, perché comunque come potremmo dire, se si diventa a suoi fatti è come se si perdono un po' le coordinate di quelle che debba essere la lotta, e ovviamente noi non vogliamo questo, perché la lotta è attuale, deve essere continuata, deve essere perpetua fino ad un radicale cambiamento. L'utilizzo di delle determinate sostanze in determinati contesti, come hai detto tu, quelli dei centri sociali, dovrebbe essere comunque controllata, perché si parla di spazi che dovrebbero diciamo raccogliere persone che si oppongono ad un determinato modello, che è quello vigente, quello del sistema capitalistico che ci viene imposto, e quindi bisognerebbe un attimino come poter dire, dosare bene l'utilizzo che si fa di... Ricordiamo che noi non siamo un gruppo straight edge, quindi chi di noi beve, c'è anche chi fuma, quindi non è questione di essere completamente lontani da queste sostanze o addirittura dall'alcol, perché a tutti piace bere, certo, una birra, un bicchiere di vino o fumarci anche una canna ogni tanto. L'importante è che ci sia una completa autonomia dell'individuo a tal punto da riuscire a essere in costante conflitto con questa situazione attuale della società capitalista o della società, secondo me, anche fascista, che è quella dei giorni nostri, e quindi contro queste autorità che non fanno altro che continuare a proporci questo tipo di comportamento preconfezionato e che cercano di impacchettarci in uno stile di vita che a loro fa comodo e ci riesce a limitare da questo punto di vista politico e militante. Benissimo, io a questo punto passerei proprio il pezzo, la cover, insomma, dei Quinto Braccio. Esatto. Se siete d'accordo, eh? Ci siamo. Ok. L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite, l'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di educare, a noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino, repressione e civiltà. Siete? Ci siamo. Ok. Vai. Allora, questo sempre da Rumore e Rabbia. Ti va di descrivere, insomma, chi ci ascolta, anche le grafiche che accompagnano i vostri lavori? Se ci vuoi descrivere la copertina, insomma, di Rumore e Rabbia, perché è interessante. Beh, direi che è una copertina abbastanza esplicita. Poco da descrivere. C'è una macchina degli sbirri che brucia. Vabbè, cioè, per forza di cose in radio la dobbiamo descrivere, quindi dovete fare lo sforzo. La copertina è semplicemente una macchina degli sbirri che va a fuoco. Le grafiche interne, sostanzialmente ogni testo delle canzoni che ci sono presenti sulla demo è accompagnato da una grafica che sostanzialmente riprende o comunque descrive il tema trattato per ogni canzone. Per esempio, avevamo, cosa c'era? Chiesa brucia, direi che anche qua è molto chiara l'immagine che uno si può immaginare, che è una chiesa in fiamme. Ma di altre cosa avevamo? C'è per esempio una canzone a titolo criptico, Odio la polizia italiana, che presenta anche a sua volta una macchina degli sbirri e fuoco che la compagna. Ma come distintivo, che c'era uno sbirro con la faccia da maiale, se non mi sbaglio, impiccato insieme ad un giudice di tribunale, sempre anche lui impiccato con la faccia da capra, qualcosa del genere. Quindi diciamo che sono abbastanza espliciti, come i nostri testi d'altronde, non c'è nulla da nascondere. Insomma, il primo lavoro è liberamente scaricabile sempre dalla pagina di Bandcamp. Ci vuoi ricordare le coordinate della pagina? Sì, è www.bandcamp.com / repressione, se non sbaglio. Basta scrivere repressione, rumore, rabbia, Bandcamp e se non sbaglio è la prima, è il primo sito che compare. Sì, sì. Nella se no, su Facebook comunque ci sono tutte i link a cui poter liberamente ascoltare o scaricare quello che registriamo. Ok, allora recentemente siete stati ospite di un'altra trasmissione, siccome da queste parti ci piace insomma parlare appunto di tutte le altre realtà che si occupano di underground, che hanno un occhio rivolto all'autoproduzione, siete stati a Radio Fuggico, no? Sì, siamo stati ospiti di Radio Fuggico, nella trasmissione del Boccia, di Stefano. Che salutiamo ovviamente. Ciao, ciao. Noise Attack, questo lunedì sera. Trasmissione che c'è lunedì sera da che ora? Così magari la diffondiamo dalle anche. Dalle 11 a mezzanotte e mezza. Quindi dalle 23 alle 20 alle 00:30. Ogni lunedì. Solo questo lunedì, quello che viene, non ci sarà la trasmissione. Riprenderà dal lunedì successivo, perché siamo tutti al concerto dei Magruder Grind qua a Bologna. Ma dove lo fanno? Al Freakout. Ok, vabbè, visto che stiamo parlando di posti, mi viene naturale insomma agganciarmi anche al posto dove voi suonate, no? Sì, che è il posto da cui tra l'altro stiamo rispondendo. Esatto. Che è l'M24, lo storico centro sociale di Bologna. Oramai ha più di 15 anni sicuramente, sì. È lo sbaglio del 2004, quindi sono 12 anni. Guarda, io ti potrei dire che è sicuramente dal 2002. Sì, c'è questa diatriba tra noi e il Dario, 2002-2004. Ah, mi sa che aveva ragione lui, perché però com'è la cosa che pretendete? Chiederemo. Cioè, vabbè, a meno che non... Io ti do ragione. No, vabbè, credo anche nelle deformazioni spazio-temporali, quindi è possibile pure che era un'altra curva dello spazio-tempo, però dovrebbe essere minimo dal 2002. E, esatto. Insomma, la saletta autogestita dell'XM24. Diciamo, questo progetto di cui noi facciamo parte, che coinvolge vari gruppi della scena bolognese, con i Repressione, Sony Zeman, Ole Ile, gli Agestas, di Scalp, o anche gruppi che non hanno ancora un nome, quindi di membri della saletta che si uniscono e diciamo non trovano ancora un nome per fuoriuscire. Però diciamo siamo questi gruppi che ovviamente sono l'unione di bassi che sono antifascismo, antisessismo, antirassismo, anticapitalismo, con l'ideale dell'autogestione abbiamo voluto mettere su questa saletta in cui ci si organizza, si prova, si fanno concerti e appunto si autogestiscono gli spazi tramite serate e ovviamente collaborazione con il posto, l'XM, coinvolgendo il più grande numero possibile di gente, ovviamente perché la scena punk HC ha bisogno per sua stessa natura della collaborazione della gente, del pubblico. Ci è sembrato un po' dovuto dopo diciamo lo sgombero dell'Atlantide sostituire un po' queste serate qui all'XM, riuscendo anche a fare dei concerti con gruppi soprattutto locali, anche della Saletta o di Bologna, e con gruppi esterni, in cui più o meno si cercasse di ricalcare quelle che sono le condizioni che erano presenti a quei concerti dell'Atlantide, in cui era presente molta gente, c'erano dei pezzi tra ingresso e consumi non eccessivi, anzi tutto proprietario, c'era un ambiente completamente diciamo hardcore o punk, che credo faccia sempre piacere qua a Bologna dopo quello che è stato il tragico sgombero di Atlantide. Sì, quello che vogliamo è sempre ovviamente prezzi popolari, sia di ingresso che di consumazione, un abbattimento della barriera del palco, sì, che il pubblico è praticamente a ridosso del gruppo che suona. Lo spazio è piccolo, quindi ci si sente tutti coinvolti, e questo è quello che noi puntiamo a portare avanti. E poi c'è da ricordare che oramai i posti rimasti a Bologna occupati, o comunque che, mettiamolo così, si sbattono per fare concerti punk hardcore in una determinata maniera, che è la maniera, diciamo, old school di fare concerti hardcore, sono rimasti solo questo, l'XM e l'Iqbal, e quindi bisogna impegnarsi perché questi posti continuino a vivere, e perché ci sia sempre un giro di gruppi, di persone, di scena, e sbattersi perché tanta gente riesca a suonare in questi posti. Ma da quanto tempo esiste il collettivo della sala prova autogestita, l'XM? Allora, è nato nella primavera del 2015, quindi più o meno quasi un anno, però in realtà ha preso questi binari più o meno da settembre, quando ha avuto una sorta di, come si può dire, aggiornamento dei gruppi presenti in saletta, e quindi si è iniziato ad operare in questa maniera collettivamente, autogestendosi ovviamente. Ma c'era prima l'XM sempre una sala prove o...? Sì, era la sala prove di Frigotecnica, prima, okay, che è un altro collettivo che organizza qua, sempre grind, hardcore, post-metal, però poi era finita un po' in abbandono, nel senso che mancavano pezzi della strumentazione, mancavano degli ampli. Non erano presenti tantissimi gruppi, quindi... E poi non era molto pubblicizzata come cosa, quindi praticamente non ci provava quasi più nessuno. E però da quando altri ragazzi, e poi noi in seguito, perché noi siamo uniti circa ottobre, se non sbaglio, sì, settembre-ottobre, hanno iniziato a provare regolarmente qua, e il posto ha ripreso, diciamo, vita. Insomma, i concerti che organizziamo sono o ovviamente per benefit, per i colpiti della repressione, o per realtà che magari sono in difficoltà e hanno bisogno di sostegno, o semplicemente per autofinanziare quello che è il nostro progetto, e per portarlo avanti anche veramente per la strumentazione, o diciamo per ristrutturare. Stiamo cercando di veicolare quello che è il messaggio del do it yourself in un contesto che qua a Bologna, dopo appunto lo sgombero di Atlantide, non è così semplice, perché molti concerti vengono fatti in locali che hanno poco a che fare con questa nostra filosofia. Insomma, noi qui insomma siamo venuti il 19 di febbraio appunto durante un'iniziativa di Frigotecnica, appunto. Più tardi trasmetteremo degli estratti live appunto di quella serata lì, voi, a parte insomma l'attività dell'XM Live, che insomma di tutto rispetto, una programmazione abbastanza fitta di iniziative, appunto organizzate dei concerti sotto la saletta, quindi una dimensione più piccola, appunto, dove si è tutti in contatto, no? Contatto ravvicinato. Il posto è piccolo, è più o meno la sala dove ci sono i concerti è grande come quella dell'Atlantide, quindi per chi non l'avesse vista è anche più piccola dell'Atlantide. Non so quantificarli i metri quadri, però è piccolina. L'ambiente è fantastico, la gente è veramente numerosa, c'è veramente supporta i concerti, c'è gente che non riesce neanche ad entrare, ed è lì sulla soglia che vuole sentire, quindi questo non fa altro che farci piacere. I gruppi, chiamiamo gruppi ovviamente della saletta, gruppi da Bologna, è un gruppo da, di solito facciamo così, un gruppo da fuori, a cui ovviamente garantiamo il rimborso, perché è giusto che chi si sbatte per suonare e portare avanti la scena abbia diritto a rientrare quasi nelle spese, quindi. insomma il posto è molto piccolo, affollato durante i concerti che organizzate. Quale tipo di attitudine insomma vorreste trovare in queste situazioni? Lo diciamo insomma a chi ci ascolta, così magari se gli viene la curiosità di passare per Bologna. Ma l'attitudine deve essere sempre quella punk, quindi hardcore, e quindi di supportare degli spazi, ovviamente come questi, diciamo, parliamo di centri sociali o, e ovviamente partendo sempre dai capisaldi che sono quelli dell'antifascismo, da cui non si può prescindere, assieme antisessismo, antirassismo. Appunto, vogliamo distaccarci un po' da quella che potrebbe essere una mentalità di puro divertimento, anche nel punk, nella storia. Vogliamo trasmettere dei messaggi, oltre a quelli classici di antifascismo, antisessismo, antirassismo, anticapitalismo e quant'altro, quelli del Lucio Spelto, di far capire che la musica non deve essere soltanto una finalità di divertimento e di danaro, ma soprattutto anche di messaggio, oltre a questo, di una realtà che qua a Bologna comincia a essere difficoltosa di confliggere quella che appunto può essere una repressione, oltre che politica, qui a Bologna, anche di questi spazi che hanno sempre offerto da molti anni divertimento, una specie di cultura, società e controcultura alternativa presente a Bologna, anche in Italia in generale, se non tante parti. Allora, e poi soprattutto sì. Vabbè, ci piace la gente che tocca il soffitto quando esatto. Che per forza di cose, insomma, lo spazio deve essere occupato tutto, quindi se non ci si entra in verticale, cioè insomma lo spazio che rimane vicino al soffitto, insomma. Sì, se non è pieno il concerto non fa. Lo staging, lo stage diving è ben gradito, anzi quasi obbligatorio. Ok, e vabbè, noi siamo stati appunto anche a conoscere il collettivo della sala prova autogestita all'IXM24, e siccome nella nostra natura, in quanto progetto autogestito ed autofinanziato dal 1977, e vogliamo insomma farci conoscere, entrare in relazione con tutte le realtà che sono sulla stessa frequenza, ci siamo fatti una chiacchierata, vogliamo comunicare insomma a chi ci ascolta che cosa sta nascendo. Sì, sta nascendo una bellissima realtà qui ad XM grazie alla saletta, però noi vogliamo soprattutto rinnovare l'invito per la serata che ci sarà qui sempre in saletta il 19 marzo, che sarà sia serata, diciamo, benefit per Fippo, Andre, Tommy, che sappiamo benissimo tutti chi sono, e soprattutto a sostegno delle spese di Radio Onda Rossa. Quindi una serata in collaborazione e a sostegno, come ben detto tu, della radio. Guarda, da veramente una cosa che ci commuove qui in tutta la radio, non possiamo fare nient'altro che insomma abbracciarvi tutti e di ringraziarvi per questa iniziativa. Quindi ci vediamo il 19 marzo alla saletta autogestita dell'XM24. Chi suonerà? Suoneranno due gruppi della saletta, Scalp e The Gestas, che fanno rispettivamente di beat e neocrust. Un gruppo da Bologna, i Repulsione, che fanno Power Violence, sono famosissimi, e da Firenze i Collapse, che fanno thrash metal. Thrash metal. Quindi una serata variegata all'insegna del do it yourself e del supporto per le realtà occupate, autogestite, per chi si sbatte in primis, per Pippo, Tommy, Andre, per Radio Onda Rossa. La schiesta sta cercando di diventare ormai una costante nella nostra saletta, circa uno ogni mesi, più o meno, cercare di creare una realtà, di creare rete da quella di artanti che affronta quelle che sono le situazioni. a Bologna. Ok, noi dal canto nostro saremo presenti molto probabilmente con una con un banchetto delle autoproduzioni di Rete Onda Rossa. Proveremo se troviamo un angolo libero a postare, sì, a postare, vabbè, e, insomma, a posizionare la nostra strumentazione per poter registrare tutto il concerto. E noi ci vediamo allora il 19 marzo. Certo, farebbe molto piacere. Siete benvenutissimi. Dai, va bene. Allora ci salutiamo. Vi ringrazio, Repressione. Mi raccomando, insomma, fate i bravi. No, ringraziamo te. Siamo te per averci ospitato in radio. Esatto. Nel programma. È l'opportunità di averci fatto dire quello che un po' pensiamo, quello che vogliamo trasmettere. Ringraziamo a te, Luiz, Your Touch Invasion, e Radio Trovato tra Mitica Radio Onda Rossa, ovviamente storica. Dai, un abbraccione, a prestissimo. Ciao, dai, ciao, ciao, ciao. E sempre da Bologna passiamo un altro gruppo che fa parte del collettivo della sala prova autogestita dell'XM, e loro sono le Ile. Qui del loro Witchcore demo, e questa è Not My Savior. L'altra settimana abbiamo passato la prima parte del dedicata al live di Frigo Tecniche con le Tormenta, Loia e Miotic. E questa sera passiamo i Cayman The Animal da Roma, Perugia. E poi a seguire Lily Refrain, Cayman The Animal da vedere dal vivo, perché sono pazzi. Cayman The Animal live all'XM. We'll be right back. siamo i Cavanini. Okay, questa è una canzone per parlare meglio in inglese. Noi come sempre entriamo in pieno territorio di apostasia. Vabbè, siamo fatti così, ci allarghiamo. Anni e anni di pace. E passiamo dai Cayman di Animal a chiudere questo report live del concerto del 19 febbraio all'XM24 di Bologna. Con una conoscenza di Radio Onda Rossa, lei è Lily Refrain ed è qui dal vivo, cioè non qui, virtualmente. Dove ho ricordi meravigliosi e dove ho incontrato gente fantastica. Prima di cominciare il live, a proposito di gente fantastica, di luoghi meravigliosi, liberi, liberati e tutto il resto, vi invito, siccome ci sono cari amici qui che hanno fatto anche chilometri e c'è un amico in particolare che viene da Roma e che è uno dei conduttori di Radio Onda Rossa, che tutti voi conoscete, siccome Radio Onda Rossa in questo momento è nella merda nera, e sul sito di Radio Onda Rossa c'è un progetto dal basso, mi pare, che si chiama Crowdfunding, quindi chiunque vuole fare benefit, iniziative o supportare la possibilità di non far morire una delle poche radio italiane libere e liberate, può farlo. E grazie per essere qui tutti quanti. Thank you. andiamo a chiudere così la puntata di questa sera. Ricordiamo che potrete ascoltare per intero le registrazioni integrali dei concerti, insomma, passati questa sera, appunto del live del 19 febbraio all'XM24 di Bologna. Li pubblicheremo sul sito in forma integrale. Non vi preoccupate, insomma, se tagliamo così li refrene, però già siamo in pieno territorio Apostasia, quindi rimanete all'ascolto. Ma sul finire ricordiamo dell'iniziativa di sabato 5 marzo, un'iniziativa a sostegno dell'attività della biblioteca L'Idea a Torre Mauro occupata, via della Verle 10. E quindi cena vegan, distro anarchica, autoproduzioni, sottoscrizioni libera. Poi dalle ore 22 concerto con Escara Electropunk. Ride Inside, Hardcore da Ivrea, i Romanez, punk rock and roll e i T3F, Trash Solo Quartet. E quindi tutto questo alla Torre Mauro occupata questo sabato 5 marzo. Ricordiamo un'altra iniziativa, sempre questo sabato 5 marzo, alle Cagne Sciolte, quindi in via Ostiense 137B, Ciao Cori, cabaret, un benefit per le spese legali appunto delle Cagne Sciolte, e quindi dalle ore 20 cabaret, cena vegan e soft DJ set. Ricordiamo che da questa settimana, dal primo di marzo, l'Etere Romano perde uno spazio nell'FM di una radio libera, storica, nata come Radio Proletaria nel 1978. Radio che proprio agli inizi della sua nascita ha visto la collaborazione con Radio Onda Rossa, e quindi per noi è un grande dispiacere sentire la mancanza in FM di Radio Città Aperta, progetto che comunque continua sul web, quindi da questi microfoni abbiamo la voglia di dare un forte augurio a tutta la redazione di Radio Città Aperta per questa nuova avventura solo sul web. Quindi dai forte. Un saluto a tutte e tutti all'ascolto per la pazienza e la vicinanza, insomma. Noi ci risentiamo giovedì prossimo dalle ore 21. Il nostro saluto più caloroso va a tutte e tutti coloro che si trovano in condizioni di limitata libertà personale. Dai forte, rimanete all'ascolto. Tra pochissimo, Apostasia.